la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:30, primi quasi 31, mancano 3 secondi. In diretta da Milano, vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto. Come sempre, Oscar Giannino vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, per partecipare alla serie di trasmissioni come ieri con le vostre voci e le vostre storie su Italia non per giovani. Chi se ne va o è andato e torna, o chi resta qua deluso o speranzoso che ci siano migliori occasioni piuttosto che in altri paesi. Mi avete sentito quante straordinarie storie i nostri ascoltatori vi stanno proponendo di chi ci ha creduto e riesce, credendoci con merito, ma con molti passaggi che spiegano quanto qui le cose siano dannatamente più complicate. Ecco, il tema della puntata oggi è un altro, perché facciamo invece una riflessione sui dati che ha diffuso ieri il Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, IRPEF, quindi per l'anno d'imposta 2015, quindi poi regolate nel 2016. Ecco, tutti i giornali oggi, chi più chi meno, hanno dato ampio spazio alle dichiarazioni, e ci sono molti aspetti che queste dichiarazioni, le medie, le tipologie di contribuenti, ci dicono, ovviamente, rispetto a cosa l'IRPEF rappresenta, chi la paga e quanto, per così dire. Da quello che si capisce, la fotografia è quella di un paese in cui sì, i redditi salgono complessivamente, sul totale delle imposte salgono significativamente le addizionali comunali e regionali, quindi per fortuna che è scattato poi un blocco, ma fino al 2015 il blocco non c'era della leva fiscale per i sindaci e le regioni, perché stiamo parlando di aumenti per queste due voci nell'ambito del superiore al 4%, tra il 4 e il 5%. E poi naturalmente c'è una fotografia della gap territoriale tra i redditi medi dichiarati nelle diverse parti del paese, e alcune considerazioni interessanti da fare, come sempre, su lavoro dipendente, pensionati e autonomi, ma anche, a dirvi la verità, su chi paga quanto rispetto poi alle necessità della spesa pubblica, perché in realtà se andiamo a vedere il 55% del totale dell'IRPEF è pagato da coloro che sono tra i 20 e i 55 mila euro, e a dire la verità da questi dati si capisce che la progressività italiana a cui l'IRPEF si ispira è sempre più una cosa che in realtà viene dichiarata e conclamata, ma che nella realtà è molto, tra virgolette, smentita dai fatti, per così dire. Io ricordo a tutti che abbiamo un'aliquota in particolare, cioè quella del 38%, che scatta a una soglia di reddito tale da avere abbastanza massacrato nel tempo il ceto medio italiano. Però per capire meglio tutti questi dati, e per vedere anche come interpretare con una gerarchia dell'importanza dei messaggi che ci lanciano, abbiamo uno degli esperti a cui ci affidiamo sempre in materia tributaria e in questa trasmissione, il professor Dario Stevanato, che insegna diritto tributario all'Università di Trieste. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, da quale di questi aspetti vogliamo partire, secondo lei? Ma partirei da una considerazione di fondo circa il fatto che questi dati tendono a livello strutturale a ripetersi di anno in anno. Cioè, mi sembra un assetto abbastanza stabile, abbastanza cristallizzato. Se si vanno a vedere i dati del 2014, del 2013 e via così, si vede che per grandi masse le cose non cambiano molto di anno in anno. Ci sono alcune variazioni al margine, e io ne ho notate due o tre quest'anno che forse fanno la differenza rispetto a, a un'invarianza di dati, e che che secondo me accentuano delle tendenze e delle distorsioni presenti nell'IPEF. Il primo dato che emerge è una caratteristica che io vado notando da tempo, e cioè che la base IRPEF si restringe in modo progressivo. Uso un gioco di parole rispetto a, alla progressività da lei citato un attimo fa, cioè anche la base imponibile si va progressivamente restringendo. Lo si vede quest'anno nell'aumento del numero di soggetti che non pagano più alcuna imposta. Cioè i dati che erano attestati attorno ai 10 milioni di dichiarazioni con imposta zero quest'anno salgono per effetto del bonus 80 euro che per alcuni ha significato totale azzeramento dell'imposta dovuta. I dati del Ministero dicono che siamo saliti a 12,2 milioni, quindi è un incremento consistente. 12,2 milioni su un totale che supera di poco i 40 milioni di posizione tributaria. Esatto, sì. Quindi non è poco, quindi... Questo peraltro sta accadendo anche in altri ordinamenti dove si assiste a un ampliamento della fascia esente, che da noi peraltro è selettiva, ma insomma se poi c'è tempo ne parliamo. Cioè non riguarda tutti i titolari di redditi, ma solo sostanzialmente i lavoratori dipendenti e i pensionati. E l'altro dato che notavo è anche qui un'accentuazione del peso maggioritario dell'imposta su una fascia limitata di soggetti. Cioè quel 5% di contribuenti, che 4-5% di contribuenti sopra i 50.000 euro, l'anno scorso pagavano il 35% dell'IRPEF complessiva, quest'anno, cioè nel 2015, questa percentuale è salita al 38%. E questo anche è un dato che ritrovo in altri ordinamenti, ad esempio nel Regno Unito si sta verificando la stessa cosa, cioè viene notata una... ampliamento dell'esenzione alla base di più soggetti esenti e uno spostamento del peso dell'imposizione in misura maggiore sui titolari, diciamo, di redditi medio-alti, con dei rischi anche per la stabilità del gettito, perché se un certo numero di questi soggetti facessero altre scelte a un certo punto è da chiedersi che cosa succederebbe del gettito complessivo. E poi ci sono altre considerazioni che pure mi sembrano andare sempre in questo senso, cioè del restringimento della base IRPEF. Sono due dati che riguardano la platea di soggetti che, o comunque di redditi che non pagano aliquote progressive ma che scontano cedolari proporzionali. Esatto. Cioè, in questo caso, quest'anno, anche qui è un dato che trova conferma con il trend già registrato l'anno precedente e gli anni precedenti, ovvero un maggior numero di redditi che si stanno spostando dalle locazioni tassate in modo ordinario a quelle tassate in modo cedolare e proporzionale, quindi, e noto con anche una diminuzione dei redditi da locazione a tassazione ordinaria. Questo significa che c'è in parte uno spostamento di chi prima pagava IRPEF ordinaria sulle locazioni va verso l'IRPEF agevolata e sostitutiva. Dall'altro potrebbe forse anche esserci un fenomeno, ma non ne sono certo, di recupero dell'evasione su quel tipo di redditi. L'altro dato ancora che noterei è, e qui c'è un'illusione ottica, qui bisogna stare attenti di non cadere, cioè il reddito medio dichiarato da lavoratori autonomi e imprenditori individuali sale, quindi uno potrebbe vedere positivamente questo dato, ma in realtà è un'illusione, perché la media sale perché molti soggetti con redditi tendenzialmente bassi anche qui escono dall'IRPEF ordinaria per optare per i vari regimi a forfè diciamo sostitutivi con aliquote che vanno dal 5 al 15%. Esattamente. Quindi mi pare che questi dati non rappresentano grandi sorprese, semmai confermano delle tendenze a mio avviso non particolarmente positive, cioè di un restringimento alla base IRPEF da un lato e dall'altro nel fatto che questa va a gravare molto su pochi soggetti, e comunque è verissimo quello che lei diceva prima, cioè che è una progressività che scatta subito per fasce basse di reddito e poi tende abbastanza ad appiattirsi. In tutto questo, una delle consuete, ricorrenti polemiche, lei diceva prima dei redditi medi, cioè quella relativa agli autonomi, perché il più dell'incasso IRPEF viene dalla somma naturalmente dei lavoratori dipendenti e pensioni. Però se uno va a vedere la crescita del lavoro, del reddito con degli autonomi, vede che la media appunto sale a 38.290 sì. euro, ed è però questa media più elevata, cosa che i giornali oggi non hanno ricordato, la vera spiegazione è che la media sale perché chi sta in basso va alla cedolare secca, ecco, no? Perché questo è bene capirlo, nel senso che io potrei dirvi, se fossi un semplicione, vedete, gli autonomi alzano il reddito dichiarato, questo è un frutto della lotta all'evasione fiscale. No, siccome noi viviamo, cari ascoltatori, un sistema nel quale vi declamano la progressività come valore costituzionalmente intangibile, l'articolo 53 della Costituzione, A, B, si dimenticano di dirvi che l'articolo 53 della Costituzione sta scritto che è il sistema nella sua generalità che deve essere progressivo, non ogni singola imposta, ma soprattutto si dimenticano di dirvi che alla ricerca continua, l'ultimo giorno, l'ultima settimana della legge di stabilità, di qualche cosa di aggiuntivo che faccia quadrare i conti, di solito per equilibrare più spesa o minori entrate stabilite dal Parlamento rispetto al testo originario, negli anni, anzi nei decenni, si è ricorso esattamente a la scomposizione sempre più ampia nel tempo, poi il professor Stevanato mi correggerà, mi bacchetterà su quello che dico, di pezzi crescenti di soggetti e classi di imponibile e di reddito rispetto alle aliquote esistenti. Noi abbiamo smontato nel tempo questa imposta la cui progressività vi viene raccontata come un fondamento costituzionale intoccabile, e nella realtà a seconda di molte tipologie, quella del reddito immobiliare che riguardava adesso il che ricordava adesso il professor Stevanato, o quelle che riguardano ditte individuali piccole, eccetera eccetera, si sono moltiplicate nel tempo delle aliquote fisse che non hanno niente a che vedere con questa impostazione che vi descrivono come intoccabile dell'IRPEF. Allora, come si fa a far coesistere insieme, senza perdere il bandolo della matassa, questi due fenomeni? Uno, il dichiarato, e il dichiarato non fiscale, il dichiarato dal punto di vista della politica, e l'altro il reale operato della politica, che smonta e rende sempre più illogico e incomprensibile l'operato delle attuali criticabilissime aliquote dell'IRPEF, professor Stevanato. È un tema assai complesso, cioè mettere insieme questi due aspetti è veramente complicato, perché non c'è dubbio che l'imposta, che l'IRPEF si è via via trasformata in un insieme di imposte speciali, di imposte speciali di tipo cedolare, accanto ad una, ricordavamo le cedolari sulle locazioni, ricordavamo gli autonomi minimi, ma ce ne sono molti altri, ci sono i redditi finanziari tassati in via sostitutiva, ci sono i dividendi, ci sono... Via sostitutiva, ricordiamo, 12,5, 20 o 26, alzati, anche lì, poi a seconda del cespite, lo Stato decide discrezionalmente lui, aliquote completamente diverse. Certo, perché non c'è nemmeno un sistema duale, uno potrebbe dire c'è un sistema duale che ha una sua coerenza, più o meno condividibile, ma almeno è coerente, tutti i redditi capitali tassati alla stessa aliquota, invece da noi ci sono non so quante aliquote diverse, non ho perso il conto. E accanto a tutte queste aliquote sostitutive proporzionali c'è c'è un'imposta progressiva sostanzialmente sui soli redditi di lavoro, perché se ci troveremo in qualche occasione l'anno prossimo a commentare i dati che usciranno, vedremo per la prima volta l'effetto dell'IRI, cioè della tassazione proporzionale su redditi di imprese individuali e società di persone, e lì ci sarà anche da discutere sul fatto che un altro pezzo di IRPEF sparisce. È vero che è una tassazione soltanto interinale, ma poi voglio vedere come funzionerà il meccanismo dei prelievi dall'impresa di chi opterà per una tassazione che sarà al 24%, e quindi anche lì una tassazione proporzionale. Quindi adesso ragionare su una revisione della curva di progressività che insiste soltanto sui redditi di lavoro a me pare un esercizio più difficile, se non inutile. perché cioè possiamo anche migliorare la curva della progressività, però dobbiamo essere consapevoli che questa riguarda solo un sottoinsieme dei ereditieri. Beh, insomma, io di cui deriverei, ma non è il tema di questa trasmissione, la necessità di una riforma organica dell'imposta sul reddito. Prendendo la questione per le corna, cari ascoltatori, come vedete questa progressività di queste curve, vista la sottrazione per tipo di cespito attraverso imposte cedolari, cioè proporzionali, fisse e secche, in maniera del tutto disomogenea e senza una filosofia di fondo, perché spiegatemi voi la filosofia per cui esistono aliquote diverse per redditi da capitale a seconda di cosa mi compro, ma dai su ragazzi. Allora, però questo dovrebbe portarvi, ma ne parleremo un'altra volta, a immaginare che chi propone di fare convergere verso la neutralità un'aliquota sui diversi tipi di reddito e poi graduando la progressività con detrazioni e deduzioni ha un fondamento, come vedete, in quello che sta accadendo in questa finta progressività sui soli redditi da lavoro, peraltro, che viene definita come intoccabile, come se fosse una bandiera di civiltà, e un sistema sempre meno fisiologicamente efficiente, A, B, in cui una percentuale bassissima del totale dei contribuenti finisce per pagare un mucchio, a dire la verità, in cui per capirci, la gran parte dei 37 milioni di concittadini tra reddito 0 e 20.000 euro annui lordi, sono 37 milioni, finiscono per essere praticamente, secondo questi dati, pressoché totalmente a carico dell'11,2% dei contribuenti, che da soli pagano il 52% di tutta l'IRPEF. Io sto parlando anche della sostenibilità della spesa sociale e del welfare. La spesa sociale sul totale della spesa italiana è il 27,5%, se poi ci abbiniamo anche quello che resta di spese per la casa e così via, andiamo al 30%. Al 30%, quindi 30% del PIL, per capirci. Quindi non stiamo parlando di una spesa sociale bassa in Europa, anzi è ai più alti vertici. Però la sostenibilità di quella roba con questo squilibrio di fondo che si legge nei dati IRPEF, ripeto, 37 milioni di italiani tra redditi tra 0 e 20.000 annui euro gli annui lordi, cioè praticamente imposta zero, per capirci, che sono a carico dell'11% dei contribuenti che pagano il 52% di tutta l'IRPEF. Ma secondo voi è qualche cosa che si desume logicamente dalla progressività o è il segno che oramai questa imposta colpisce solo alcuni redditi iperprogressivamente e tutto il resto è lasciato, chiamiamola la fantasia politica, ma priva di una logica? Ecco, ripartiamo da questa domanda dopo un minuto di traffico. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui tornati col professor Dario Stevanato a interrogarci su alcuni degli elementi che lanciano i segnali su cui riflettere, dalla geografia dell'IRPEF pagata nel 2016 sui redditi del 2015. Esiste, secondo lei, fondato il ragionamento che facevo prima sulla difficile sostenibilità di questa base così esigua di contribuenti a carico della quale c'è una base così imponente rispetto al 30% di PIL di spesa sociale da pagare? Sì, c'è un problema di sostenibilità e di anche di stabilità stessa del gettito, come dicevo prima, se si confida su un numero, una cerchia sempre più ristretta di soggetti per avere una parte maggioritaria del gettito, non c'è dubbio che si corre un rischio. Adesso penso ad esempio a tentativi di ad esempio aumentare ancora le aliquote su titolari di redditi elevati, che in altri ordinamenti hanno provocato lo stesso accadrebbe forse da noi, fenomeni di espatri fiscali o di disincentivi al lavoro o addirittura di fenomeni evasivi ed elusivi. Cioè non c'è dubbio che confidare su una piramide rovesciata è una cosa strana, perché lì l'imposta sul reddito, un po', non solo in Italia, stanno un po' ridiventando quelle che erano all'inizio diciamo nell'Ottocento, quando sono nate, sì, perché sì, erano imposte selettive, che le aliquote erano molto più basse di oggi, non c'è dubbio, però il concetto era che i poveri non pagavano, la gran massa dei poveri non pagava l'imposta sul reddito, ma concorreva attraverso imposte indirette, mentre una piccola fetta della popolazione, quella più abbiente, pagava l'imposta sul reddito. Oggi si è, dopo un periodo in cui l'imposta invece doveva essere universale, doveva essere quasi un'imposta di cittadinanza, per così dire, esatto, sta ridiventando un'imposta selettiva. E questo a me non sembra buon viatico per tutte le ragioni che abbiamo detto. Direi di no, perché questo significa che per una parte considerevole, troppo elevata, se mi consentite, ripeto, 37 milioni di italiani, 37 milioni di italiani in cui, siccome vanno dai 0 ai 20 mila euro annui, 12 milioni di contribuenti pagano zero, però gli altri fino a 20 mila, siamo a una media di 305, 307, 310 euro di imposta IRPEF pagata, cioè, quindi stiamo parlando, ecco, a questi 37 milioni voi capite che noi diamo un'offerta universale di servizi, e questo è quello che pagano. Voi direte, state facendo un ragionamento regressivo. No, al contrario, noi vogliamo sottolineare che non si può reggere nel lungo tempo questa iperprogressività solo sul reddito da lavoro e con una base imponibile che si restringe, perché questo non si sostiene nel tempo. Ma andiamo a un punto che invece è quello che ha appassionato, perché c'è la politica di mezzo, ovviamente, oggi tutti i giornali, i politici e così via ci hanno aperto due quotidiani, oggi il Fatto Quotidiano e La Verità, durissima reazione da parte del PD, e cioè il bonus 80 euro, perché il bonus 80 euro, cioè quello che spetta ai dipendenti con reddito di anni fino a 26.000 euro, è andato a 11,9 milioni di lavoratori rispetto ai redditi 2015, e questi lo avevano ottenuto come bonus direttamente dall'azienda. E a quel punto, in sede di dichiarazione, sono venute le rettifiche ed è esplosa la grande polemica, professor Stevanato, perché 966.000 di loro su 11,9 milioni hanno dovuto restituirlo integralmente da una parte, dall'altra 765.000 hanno dovuto restituirne una parte, e quindi se facciamo la somma siamo a oltre 1.700.000 contribuenti sul totale degli 11,9 milioni che l'avevano incassato. E su questa è scattata una polemica infernale. Lei che ne pensa? Che diciamo era scritto che sarebbe finita così, perché il meccanismo complicatissimo di attribuzione del bonus in busta paga mensilmente, ma poi con un conguaglio da farsi a fine anno e con, diciamo, sparizione del bonus per chi ad esempio si è trovato ad avere un reddito superiore ai 26.000 euro, ma soprattutto ancora peggio a chi ha avuto il problema opposto, cioè, esatto, è diventato un incapiente, cioè, il fatto che l'incapiente debba restituire dei soldi è effettivamente una cosa pazzesca. Su questo però, professor Stevanato, le avevamo detto fin dall'inizio a Renzi, non ci hanno voluto ascoltare. Io adesso vedo che in campagna elettorale l'impostazione, avete letto tutti, o comunque vi consiglio di leggerlo per capire meglio l'intervista a Tommaso Nannicini che oggi c'è sul Foglio, cari ascoltatori, questa svolta sociale è un nuovo piano, sembra un nuovo governo quello del piano annunciato da Nannicini con il lavoro di cittadinanza. Resta il fatto che quando noi dicevamo, ho capito, tante risorse, cioè abbiamo messo 19 miliardi nella decontribuzione, abbiamo messo più di 10 miliardi nel bonus 70 euro, e però per gli incapienti zero. Ecco, questa è una cosa che viene tragicamente, direi, confermata. Quindi io su questo la polemica non la capisco, per così dire. È un difetto fondamentale di questo tipo di intervento. Oltretutto, professor Stevanato, si diceva no, ma noi dobbiamo concentrarlo in questa fascia di reddito sopra l'incapienza fino a 26.000, perché ci sarà il moltiplicatore dei consumi, perché è lì che poi la gente spende di più. I risultati non mi pare, o no? No, non mi pare. Però mi trovo paradossale che proprio adesso Renzi rivendichi la misura come una misura, diciamo, di redistribuzione, che invece è tutto tranne che quello. Cioè, mai andrebbe difesa come sgravio sulla classe lavoratrice, se proprio dobbiamo, sì, dare un senso, appunto, ma non come misura redistributiva verso i più poveri, perché come tale non è. Come tale non è stata. Allora, solo alcuni degli elementi che si possono desumere da questa dichiarazione 2016. Ringrazio il professor Dario Stevanato, continuate sulla 24, appuntamento con me Alessandro Mino domani 8:20, attenti noi due.